stai stavolta ad ascoltare? Ti do il battito giusto per poterlo fare. Ti do mille ragioni per sforzarti di capire, ma se ti tiri indietro dimmi cosa ti dovrei dire. Guarda, senti, lascia stare, resta pure lì seduto. Se quello che dico ti fa tornare su quello che hai bevuto, se quello che passa di qua dice ma che suono sceno, di certo non mi freno, tanto meno temo, tremo ma sereno. Continuo, spingo la voce all'estremo, scuoto la base per farti capire che posso volendo colpirti in pieno. Perciò attento al mio intervento, lasci cadere i tumori mentali, prepara la testa, è stato d'apprendimento. Fidati a battere, muovi tutti i tuoi preconcetti, ascolta la voce veloce di questo mangia spaghetti. Ti sto parlando, sì, attento ti sto parlando, e mentre tu stai ascoltando già qualcuno si sta preparando a criticare tutto quello che dico che faccio. Stupidi piccoli succhiatori di ramelle. Non mi dica chi ha detto che per essere considerato debba essere socialmente impegnato, politicizzato. La voce deve essere libera, fatto che sia comunicativa, mossa con abilità da una mente positiva. Ciò vuol dire saper ascoltare con elasticità, anche se quello che parla presenta sì molte diversità da te che ascolti. Ancora ti chiedi dov'è la direzione giusta verso la quale muovere i tuoi piedi. Sei anche tu come quelli che tendono solo al loro piccolo mondo e si tappano gli occhi ignorando tutto quello che gli sta intorno. Se non hai intenzione di metterti in coda al botteghino di chi ruba ideali poi li vende come una moda, ti dico per una volta più di tanto non può costare. Prova questa volta ad ascoltare. Prova questa volta ad ascoltare. Ti sto parlando, ascolta, ti sto parlando. Prova questa volta ad ascoltare. Ti sto parlando, ascolta, ti sto parlando. Prova questa volta ad ascoltare. Ti sto parlando, ascolta, ti sto parlando. Prova questa volta ad ascoltare. Ti sto parlando, ascolta, ti sto parlando. Botta botta risposta, adesso mi metto in gioco e lo so che siamo noi la posta in palio. Supero ancora la velocità che mi è consentita, do ancora una botta alla gamba che intorno mi è stata costruita da questa città ogni giorno più stretta, che ti blocca il cervello ma che ti fa camminare in fretta. Rifiuto di essere anch'io una di quelle tante facce stanche che hanno chiuso il cuore nella loro 24 ore. Sorrido vedendo ciò che ti stanno perdendo, anche dove non mi è concesso il mio spazio mi prendo. Questa scatola di cemento che si sta stringendo, chiudendo il mio modo vivendo, spingendo il mio sentimento, quella scossa vitale che dirige ogni mio movimento. Tento di darla anche a te, in modo veloce o lento, ma dimmi, ti chiedi cos'è che ti sta provocando l'impulso di muoverti adesso. È giusto, è questo, capisci, svelto. Una parola ti basta per essere meno chiuso in te stesso. Butta le spalle tutto quello che ti fa male, scavati dentro, trova la tua anima tribale. Lo so, lo puoi, lo devi fare, perché quello che fa muovere me può far muovere anche te. E se siamo ancora distanti la distanza si può accorciare, se provi questa volta ad ascoltare. Prova questa volta ad ascoltare. Ti sto parlando, ascolta, ti sto parlando. Prova questa volta ad ascoltare. Ti sto parlando, ascolta, ti sto parlando. Prova questa volta ad ascoltare. Ti sto parlando, ascolta, ti sto parlando. Prova questa volta ad ascoltare. Ti sto parlando, ascolta, ti sto parlando. A patto che il battito batta, la mia voce sempre è presente. Lascio decidere a te se sia noioso, divertente, più o meno di musica vuota che non ti impegni la testa, rompendosi in giro cercando la giusta festa. Io questi problemi non ho, anche se la festa non c'è. Il trucco che porta la festa dentro di me, dritto per la mia strada di quello che faccio sono sicuro. Lo dico in un microfono, qualcuno lo scrive su un muro. Non basta sapere di essere al mondo per essere vivi, ci vuole il mio impegno tangibile, prova d'ingegno per essere un segno di te. Un segno che dica che esisti, un segno che sia profondo, tracciato con forza e con rabbia in questo casino di mondo. Ma ogni giorno vedo gente che alzo sogno ha rinunciato. Io spero che il mio sogno non vada non vada sprecato e posso continuare a sperare. Se hai provato questa volta ad ascoltare,